Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. 10 maggio 2011. Allo stadio i tifosi inneggiano al delitto di Chiara Poggi. Quasi estate, si vede dalla luce, i contorni delle cose, nitidi. Sembra che abbia appena smesso di piovere, ma senza quell'odore lì. Di odore ne senti un altro. Non è la gardenia della signora Lucia. Che odore è? Magari è Piero. Le finestre della sua cucina sono tutte appannate. È mercoledì, il giorno delle uova al tegamino. Forse è l'odore di quando sta per piovere. E tu stai cercando un momento di solitudine e lirismo. Alberto salta il cancellino, uccidi Chiara con il coltellino, Stasia, Lea, Lea. Sono i tifosi della squadra dell'oratorio di Motta Visconti che irridono i giocatori del Garlasco. Non credo ai miei occhi, mentre leggo questo minuscolo trafiletto sul giornale. Ma che odore è? Fa venire i brividi sulla schiena, come una lepre che si è appena sentita puntare dalla tigre. Non sai dire dov'è, ti muovi piano, pianissimo, fai tutto secondo il codice dell'animale in pericolo. Emma domenica mi ha detto che non mi cambierebbe con nessun'altra mamma al mondo. Chissà se lo pensa davvero. Che importa quello che pensa la maestra sulla nostra vita? Io mia figlia la so accudire, anche se sono sola. Li conosco bene gli insegnanti, un po' miserabili e un po' poeti. Finiamo per assomigliarci tutti, dividendoci solo in due categorie. Chi il posto fisso ce l'ha e allora non fa più niente per meritarselo, e chi non ce l'ha ancora e ogni giorno sperimenta nuove metodologie alla ricerca di quella giusta. Il risultato è lo stesso. Se fossi una grafologa, andrei a studiare le calligrafie degli insegnanti sui loro registri, per dimostrare che insegnare lede seriamente la salute. Chi l'ha detto che bisogna utilizzare la biro nera? A me non piace. A 50 anni faccio fatica a vederle quelle caselle così strette e lunghe. I numeri vorrei scriverli grandi. Alberto salta al cancellino, uccidi Chiara con il coltellino, Stasia, Lea, Lea. A scuola andavo malissimo. Se la maestra Pia sapesse che sono diventata professoressa di matematica, ci rimarrebbe male. Come quando 40 anni fa mi chiamava alla lavagna. Spinetti, cosa stai facendo? E io sentivo un rivolo caldo inumidirmi le cosce e scendere giù fino alle caviglie. Poi la risata dei compagni. Di nuovo, Spinetti, corri in bagno e di alla bidella di chiamare tua madre. Anzi, tuo padre. Correvo in bagno e raccontavo tutto alla bidella. Lei mi dava una tuta per cambiarmi. Poi entrava in classe per dire alla maestra che mia madre non poteva venire. Alberto salta al cancellino, uccidi Chiara con il coltellino, Stasia, Lea, Lea. A volte anche Marco se la fa addosso, nel mezzo di una lezione, mentre mi sono già ricoperta di gesso a forza di scarabocchi sulla lavagna. Eccolo lì, l'odore. Ragazzi, l'equazione di una retta passante per un punto... Mi giro per dare un'occhiata al primo banco. Dicevo, l'equazione... Ma l'odore è insostenibile. Mi fermo, vado ad aprire la finestra. Marco, proprio lui, alza la mano. Prof, è bellissima quando si sporca tutta di gesso, sembra un bastoncino di zucchero filato. 30 risate sguaiate. Zitti, o vi interrogo tutti quanti. La campanella suona, intervallo, tutti fuori, io dentro. Quest'anno la mia classe è raddoppiata, io no, solo di chili. E quella collega di Legambiente che era tanto simpatica non c'è più. 29 allievi e Marco tra questi. Alberto salta al cancellino, ci dichiara con il coltellino, Stasia, Lea, Lea. Non credo che riuscirò a portare a termine il programma, siamo a maggio. La prova in Valsi sarà un disastro. Per fortuna a giugno sarà finita. Potrò occuparmi della mia Emma. Se mi chiamano per gli esami devo trovare qualcuno che si occupi di lei, ma costa. Anche l'abbonamento in piscina. Poi andiamo a trovare la nonna giù a Lecce. Io e la mia Emma. Vado a prenderla, è quasi ora. Di nuovo quell'odore. Ora mi paralizza. È l'odore dell'estate. E a giugno io smetto di lavorare. Fino a settembre, forse. Chissà dove mi mandano l'anno prossimo. Sono stata fortunata questa volta. 29 ragazzi e un disabile, scuola di periferia. La mia amica Giovanna si alza alle 5, ha accettato le medie, in Val di Susa, va a scuola in treno, 250 euro dello stipendio in trasporti e 3 ore di viaggio. Io sono molto fortunata. Chissà l'anno prossimo. È estate. E a volte penso che vorrei sentire l'odore della tigre, non quello della lepre. Dovrei cambiare balcone. Giuditta Scalzi, in libreria con I mammiferi felici ridono fino a tarda notte,